Ignoro la data di nascita dell'uso di ripetere il numero di qualcosa anche dopo il suo nome, no? Io me lo ricordo inevitabilmente in rapporto al teatro di varietà, al music hall e all'avanspettacolo negli anni 50 e ancora negli anni 60, ma giurerei che quest'uso ha tutta una storia che viene da più lontano. Comunque sia, dico, le 12 ballerine 12, no? Le 4 subrettine 4 rimangono connesse alla memoria di spettacoli come Baraonda di donne, a capocomici come Fanfulla, Vici de Rol, De Riopino, Sbarra e Carini, Pietro De Vico, Elio Crovetto, nonché a star come Estina Lotti, Gabby Morgan o l'incommensurabile Lola Gressi. Nella ripetizione del numero stava una sorta di garanzia e un'enfasi di quanto promesso. Ragazze in puntino, Miss Osé, Lustrini, Paillette, donnine sgambettanti cui l'eventuale smagliatura della calza rete non toglieva nulla in materia dell'immaginaria malizia di cui noi pubblico l'investivamo. Fra il 1964 e il 1970 feci a tempo a farmi una cultura in materia, non perdendomi neppure una delle più scarcagnate compagnie di avanspettacolo che venissero a calcare gli ormai scricchiolanti palcoscenici milanesi di quei pochi teatri come lo Smeraldo o il Puccini che ancora indugiassero sul genere. Ci andavo con Edmondo Aroldi, un amico da cui poi gradualmente mi sono staccato, presi ciascuno dai propri percorsi, fino a rendere radi i nostri incontri, sempre più mesti, e fino al giorno in cui, ecco, con l'Oliva, come ho già raccontato una volta, non gli abbiamo rivolto un ultimo saluto nella camera ardente di un ospedale milanese. Ho scoperto soltanto pochi giorni fa che la casa editrice San Paolo nel 2000 ha pubblicato Cara Sorella, con il sottotitolo che recita Lettere di Edmondo Aroldi a una monaca, 1983-1995, a firma della suora carmelitana Emanuela Ghini. Ora, con la curiosità di chi ha tanti buoni motivi, ecco, per essere almeno leggermente sorpreso, mi sono affrettato a procurarmi una copia del libro ed a leggerla. Si tratta di una raccolta di lettere che Aroldi ha inviato fino a 10 mesi prima di morire, nell'agosto del 1996, l'ha inviata ad una certa suora Francesca, un'altra carmelitana. Una raccolta a cui Laghini, curandola amorevolmente, premette una introduzione, diciamo che dal suo punto di vista vorrebbe conferire un senso all'insieme della vicenda. Nel 1983 Aroldi è un dirigente di una grande casa editrice milanese. Scrive a sua Francesca in relazione ad un suo libro che sta per essere pubblicato e le prime lettere riflettono ovviamente le fasi canoniche, diciamo così. Parlano dei tempi e dei modi della pubblicazione, le bozze, la copertina, l'uscita nelle librerie, le mosse furbesche perché se ne parli sui giornali o in televisione, le solite miserie, ecco, anche alla faccia della clausura e nonostante i piedi scalzi, le solite miserie di chi cerca il successo mondano. Ma ben presto queste lettere si trasformano e cominciano ad annoverare privatezze varie del mio amico Aroldi. La convivenza con la sua vecchia madre, sempre più vecchia, gli anni propri che pesano, il ricordo dei suoi amori andati a male, le lotte per il potere aziendale, la sua solitudine, le sue malattie, un tedium vitae che sembrerebbe attanagliarlo inesorabilmente, il suo disincanto verso tutto e verso tutti, la sua storia molto passata di ex cattolico, la sua storia passata di ex comunista, la sua storia tutta attuale, quella ancora di socialista, il suo tenace snobismo. E nel flusso di queste lettere, che misteriosamente si arresta almeno in due occasioni cospicue, una prima volta per quasi 4 anni, una seconda per quasi 3, oltre i 10 mesi finali, nel flusso di queste lettere c'è un momento in cui lui invita la cara sorella a scrivergli a casa, a parte, e non in casa editrice, se gli scrivesse non di lavoro. E c'è un secondo momento in cui lui stesso dice di averle scritto a parte una lettera, una seconda lettera per cose concernenti il lavoro. Voglio dire, in altre parole, sono evidenti nelle lettere i momenti in cui il carteggio, da pratico che era, diventa letterario. E letterario da una parte sola, perché nel libro non c'è traccia delle lettere di suor Francesca e a quel caro fratello Edmondo che presumibilmente le ha buttate via. Siamo poca cosa nelle mani degli altri, a maggior ragione se morti. E dire che nelle mani degli altri possiamo anche diventare gran cosa, non credo debba esserci di conforto alcuno. È così che queste lettere della Roldi, a parere della curatrice del libro, costituiscono uno dei luoghi dove lui si rivela con più sincerità. In esse si dimostrerebbe preda di un tormento esasperato, un tormento che diventa subito metafisico, sarebbe mosso da esigenze di assoluto, posseduto dal senso del mistero, mentre il suo spirito religioso rimarrebbe inappagato, sì, da ogni forma di rivelazione, ma proprio grazie a questa sua non credenza, dice sempre la curatrice, percorsa da tensioni, aperture, slanci mesti ma irrefrenabili, si vede che lui è comunque stato un cercatore di Dio e che la sua coltivazione del negativo è, facciamolo anche incapace di intendere, di volere, già che ci siamo, più subita che voluta. Beninteso, non è che lui in queste lettere non gliene abbia dato il destro, ma fatto è che qui, ecco, la curatrice ci dà dentro di brutto, metaforizza questo e quello, per cui magari anche un semplice mal di pancia o un nervoso del momento diventa immediatamente un tormento metafisico, metaforizza questo e quello, forza un'interpretazione di qua, dimentica qualcosuccia di là, e la Roldi è bello che pronto per la beatificazione. Della capacità fagocitatoria dei cattolici sono sempre rimasto ammirato. Sono lestissimi nell'arrivare sul morto. E soprattutto se questo appartiene, al bel mondo del crimine e del peccato, meglio ancora se correlato alla cosiddetta cultura, se lo fanno loro in un amen. Malaparte, Pasolini, Montale, recentemente, gerarchi nazisti, Heidegger, deglutiscono di tutto, lo metabolizzano e lo confezionano per il loro mercato. Di Aroldi, ricordo l'emilianità, quel tanto designato da questa improbabile categoria dello spirito che ne faceva un bon vivant. Si rimpinzava di cibi raffinati e costosissimi, straparlava di sesso e sempre nel quadro ideologico di una retorica del lusso non se lo faceva mancare. Alla pratica interattiva, diciamo così, che poi univa uno dei consumi più smodati di pornografia che abbia mai visto in vita mia. Fumava come un turco e si sarebbe venduto la cosa più sacra per una battuta salace, una battuta salace tagliente. intelligenza irridente, cinicamente ne aveva per tutti e conseguentemente di amici gliene rimasero pochini. Anche perché a tutti doveva quattrini. La parte non retorica del suo lusso lo costringeva a spendere molto di più di quel che guadagnava, che peraltro era tantissimo, non dormiva la notte, faceva uso eccessivo dei sonniferi, e leggeva, sì, leggeva molto, leggeva anche bene. Buon conoscitore della storia del marxismo, ha consigliato, tradotto, curato nelle varie case editrici in cui ha lavorato moltissimi libri che hanno segnato la nostra storia culturale del dopoguerra. Miracoli della storiografia. Fra quanto ne cava suor Emanuela Ghini dalle lettere e quanto ne ricordo io dal rapporto diretto con la persona, il confronto è arduo. Tanto da pensare, da far pensare che si tratti, si parli di persone diverse. E la storia, d'altronde è così, la storia è fatta di amputazioni compiute a danno di qualcuno che non c'è più e compiute in ragione degli interessi consapevoli o inconsapevoli di chi la fa. Pretendere la verità altrui è autocontraddittorio, sì, ma un po' di coerenza nel propinarci una vicenda o un ritratto di una persona non guasterebbe. E con Haroldi, dicevo, andavo alla Van Spettacolo e nelle lettere di ciò c'è un puntuale riscontro che alle due carmelitane coinvolte non sarebbe dovuto sfuggire. La ripetizione del numero dopo il nome. Nelle lettere si parla di 55 anni 55 d'esistenza, di 11 anni 11 o di 48 mesi 48 in analisi, oppure ancora dei suoi tre amori tre della sua vita. Ma ecco, quando dopo un po' di anni, per l'esattezza nell'89, chiede a suor Francesca di ringraziare le sue 15 consorelle, ahimè, ecco, visto che manca il raddoppiamento, mi viene da pensare che è vero che il lupo ha perso il pelo e il vizio e che delle antiche baraonde di donne abbia perso fin la memoria. E così la cosa mi si conferma in una lettera del 94 in cui parla delle quattro consorelle sotto i 30 anni che allignano nel Carmelo insieme a sua Francesca. Dagli e dagli, verrebbe da dire, per quanto abbia provato a professarsi vecchio sudicione laico, l'afflato mistico e quel suicidio di ragione che l'ha sempre affascinato hanno avuto alla fine la meglio. E invece no. E invece no, perché nell'ultima lettera si risveglia Leon di Castiglia e improvvisamente lascia andare una zampata delle sue. «Cara sua Francesca», scrive Haroldi, «ricorda i dialoghi delle Carmelitane di Bernanou? Beh, se viene un'altra rivoluzione francese, se la segnalo alla locale sezione giacobina, al suo Carmelo, con le quattro sorelle, quattro sotto i 30 anni, e allora se ne vedranno delle belle». Quattro sorelle quattro che giungono appena in tempo ad oscurare un processo di beatificazione e a far ribalenare il profilo del puttaniere.